Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Premesso che la vera notizia che arriva dall'Europa è l'eliminazione del Real Madrid e non certo quella del Milan, il calcio italiano è passato nel giro di 24 ore, se ci fate caso, da un'eliminazione che fa male perché complessivamente ingiusta e comunque giunta sul filo del rasoio, a un'altra che di male forse ne fa anche di più, perché complessivamente così netta, così sacrosanta e persino un po' umiliante, direi, nelle proporzioni ma anche nelle modalità di quella avvilente mezz'ora finale in cui due vecchi campioni come Beckham e Inzaghi sono stati coinvolti nella sconfitta da un allenatore sopraffatto dall'avvenimento, a parer mio. Sentiamo il commento e le spiegazioni che ha tentato di dare Leonardo a questa batosta più che a questa sconfitta. Oggi ci voleva, diciamo, tutto per poter rimontare. Tutto non ce l'avevamo, credo che abbiamo trovato un Manchester United che ha fatto una grandissima partita, una grandissima serata, una squadra che è dimostrato una grande forza. Non voglio neanche analizzare assenze, non assenze, infortuni o come è stata la preparazione della partita. Sicuramente l'abbiamo immaginata in un altro modo, abbiamo immaginata forse non avere i problemi che abbiamo avuto. Per aggiungere tutto, diciamo, per aggiungere ancora una cosa a tutto quello che era successo, è successo anche l'infortunio di Bonera. Dobbiamo riconoscere la forza dell'avversario che arriva in finale da 2 anni, che ha vinto una, che ha perso contro il Barcellona, che secondo me è la migliore squadra del mondo e che abbiamo, diciamo, principalmente a San Siro ci siamo confrontati alla pari. Oggi sicuramente è una partita che ha dimostrato, diciamo, questa differenza. Voglio è non dare l'etichetta alla squadra per quello che abbiamo visto stasera, non sarebbe neanche giusto. Credo che la squadra ha fatto un'annata importante, credo che la squadra ha fatto delle cose straordinarie a livello di gioco, a livello di risultati. Un paio di domande almeno comunque restano. Per esempio, ma perché non Beckham? Cioè, perché tenerlo fuori nell'unica partita che deve giocare? Nel senso che se un po' per scelta, un po' per necessità, perché non hai patto, schieri due punte di stazza come Boriello e Unterlar, che hanno evidentemente bisogno, come il pane, di cross, di traversoni, fatti in un certo modo, visto che l'unica vera cosa che Beckham ha sempre saputo fare è per l'appunto il cross, ma perché a crossare deve andare Abate anziché Beckham? E poi ancora all'inizio del secondo tempo, quando ormai l'impresa era praticamente impossibile, ma se la vuoi tentare tanto vale, ma perché non Favalli per Bonera? Cioè, perché non l'unico difensore che c'era in panchina per un altro difensore, anziché stravolgere completamente la squadra e venirne punito nel giro di nemmeno un minuto da un contropiede perfetto loro, ma propiziato da un'avanzata palla al piede incredibile di Thiago Silva? Sono comunque delle domande legittime che poi è chiaro che restano travolte da un 7-2 finale complessivo che non ammette repliche, ma che sul durante ci stavano, perché poi in quei 20 minuti iniziali in realtà lo United ha segnato un gol e ha avuto un'occasione, ma due occasioni altrettanto nette le ha avute il Milan, quindi vuol dire che almeno psicologicamente all'inizio qualche presupposto ci poteva essere, ma per l'appunto se crossa Abate anziché Beckham diventa un po' difficile, fermo restando poi che, ripeto, coinvolgere Beckham sullo 0-3 poteva forse anche avere un senso per fargli fare una passerella che in effetti ha emozionato lui e lo si è visto chiaramente in primo piano e ha emozionato tutti anche da casa, non solo il pubblico presente, ma coinvolgere un vecchio grande attaccante come Inzaghi a 20 minuti dalla fine sullo 0-3, vuol dire dimenticarsi di essere stato giocatore, per il mio, da parte di Leonardo. Bentornato a Fabio Tavenni. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Mi ha ricordato la sostituzione di Ferrara con Felipe Melo durante il primo tempo. Insomma, leggerezze che francamente da Leonardo anch'io non mi aspettavo. No. E credo anche che Inzaghi non l'abbia presa proprio benissimo. Non aveva proprio un viso molto... Lo credo bene che non l'abbia preso bene. È entrato senza fare scene ed è uscito senza far scena da grande professionista, però veramente sono cose che, oltretutto, da uno che ha giocato a calcio fino a ieri, sinceramente non te le aspetti. No. Dicevo all'inizio però che, insomma, l'eliminazione del Milan è una notizia fino ad un certo punto. Quella che invece fa veramente rumore, che ha sconvolto l'Europa calcistica, è quella del Real Madrid. Sì, ha sconvolto l'UEFA, ha sconvolto la stessa Madrid, che non dimentichiamo ospiterà il 22 di maggio la finale di Champions League, lo farà in una giornata di sabato, quindi sarà un giorno per certi versi storico, visto che sarà la prima Champions League ad essere assegnata non a metà settimana. A parte questo, insomma, basta semplicemente contare i 254 milioni di euro spesi per la campagna acquisti con Benzema, con Kakà e con Cristiano Ronaldo e vedere come dall'altra parte ci fosse una squadra che ha Reveiller in difesa, che ha Bomsong, che è uno scarto della Juve, che ha Sissoko, che è un giocatore che al Milan non andava bene perché aveva problemi di denti, e che ha preso Lisandro Lopez per sostituire Benzema, che ha lasciato andare via per fine carriera Juninho Pernambucano e che dopo aver vinto 7 titoli consecutivi in Francia ora è al quarto posto e rischia probabilmente di non qualificarsi per la prossima Champions League. Beh, insomma, mettere insieme tutto questo, assommato al fatto che siamo al sesto anno consecutivo nel quale Real Madrid non passa un ottavo di finale, beh, forse la prossima volta che una squadra italiana farà bella figura a Madrid dovremmo ricalibrare tutto pensando anche a questo. Ma a parte questa, che è una considerazione banalissima, mi sembra che ci sia Pellegrini questa mattina ha detto non si può in 6 mesi costruire un progetto con tutti questi giocatori nuovi. Io credo che in linea di principio sia una cosa vera, che in 6 mesi non si può improvvisare nulla. Che sinceramente il Real Madrid vada fuori così col Lione ha anche una componente di fatto, perché il Real Madrid nel primo tempo, soprattutto la prima mezz'ora, ha giocato un grandissimo calcio e questo legittima il fatto che il Real Madrid è una squadra che sta crescendo. Però poi le squadre si fanno anche con la difesa, si fanno anche con un centrocampo che possa coprire, perché ogni tanto la palla la devono pure avere gli altri e il Real Madrid questo non evidentemente non l'ha mai previsto dal punto di vista dei dirigenti, e succede che Pjanic faccia gol e che poi lì cali la paura e poi non succede più nulla. Io trovo però che sia una splendida lezione di etica per il calcio, e cioè che non basta spendere, avere 260 o 280 milioni di euro mal contati da spendere per cominciare a per vincere ad ogni costo, no? Il calcio, se Dio vuole, è uno sport leggermente più complesso. I quattrini servono, serviranno sempre, ma non l'equazione investo tanto e poi vinco altrettanto, per fortuna non esiste. Magari Leonardo, scrive Giacomo, voleva concedere a Inzaghi la possibilità di diventare il capocannoniere storico di Coppa Campioni. Anche un Leonardo, che non è l'allenatore del Milan, scrive forse è entrato per avere un'ultima possibilità di far gol in Champions, va bene, ma non a 20 minuti dalla fine, non con un Milan che non stava più in piedi fisicamente ma soprattutto psicologicamente, perché comunque era una cosa senza senso. Se vuoi dare a Inzaghi questa possibilità per come ha giocato Untel a Reboriello nel primo tempo, beh, li puoi levare tutti e due e mettere dentro Inzaghi due volte, no Fabio? Sì, non c'è dubbio. Io trovo che intanto il pane ieri sera fosse durissimo per ogni attaccante, perché Vinicius e Ferdinand sono una roba complicata da superare. Penso anche che il peso della gloria che Leonardo ieri aveva in panchina, cioè Inzaghi, Seedorf e Beckham all'inizio, insomma, visto quello che c'era in campo, potesse essere distribuito meglio. Poi, vabbè, io sono un antico appassionato di Seedorf e lo farei giocare sempre, forse non era particolarmente in condizione, però in partite come queste a me viene davvero difficile pensare a lui fuori. Io guardo il Manchester United e dico che Gary Neville è un giocatore a fine carriera, un giocatore che probabilmente non era neanche in panchina, se non ricordo male, a Roma nella finale contro il Barcellona, eppure ieri non c'è stato un milanista che l'abbia puntato in maniera seria. Cioè il Milan non ha un giocatore di fascia degno di questo nome a livello europeo per andare a puntare a mettere in difficoltà un giocatore di 35 anni come Neville, che gioca una volta ogni. Non credo che si possa dire che non ci siano in Italia reparti di centrocampo in grado di contrastare Scholes, Park e Fletcher, che ripeto sono hanno complessivamente un grandissimo rendimento, perché è evidente, Park quando gioca in Champions League quintuplica la sua cifra qualitativa, però ripeto stiamo sempre parlando di Park, di Fletcher e di Scholes, che è un super signore, ma che anche lui i suoi giri migliori li ha già fatti. Nani, ieri sera Nani sinceramente mi sembrava un fenomeno. È la prima volta forse che sembra un fenomeno. Ogni tanto partite di Premier League ne vedo, non è sempre così, Certo, Rooney, allora secondo me Rooney, Ferdinand e Vidic sono tre giocatori che in Italia non ci sono in questo momento. E quindi la differenza la possono fare. Rooney ha fatto 4 gol in 2 partite. Certo, avesse avuto Nesta e non Bonera ieri sera forse sarebbe andata diversamente. Beh, però è in un momento davvero fantastico. Però Nesta all'andata c'era. L'andata c'era. Ecco, certo. E il Manchester ha fatto 3 gol fuori casa, di cui 2 di testa con Rooney indisturbato, sì, nella zona di Nesta. Quindi, vero, tutto vero. Anche questo poi è vero, ma è sempre tutto sommato relativo. Dunque, mi pare che complessivamente questo turno abbia rilanciato, ma molto rilanciato, l'Arsenal, che da ste due giornate non dico che diventa il favorito, ma certamente è rilanciato a livello più alto. Io non credo che l'Arsenal sia favorito per un motivo abbastanza semplice. L'Arsenal ha gli stessi problemi che aveva l'anno scorso quando ha incrociato i guantoni col Manchester United. Finché l'Arsenal può giocare a questo tipo di calcio, soprattutto in casa, è una squadra che va sul velluto. Questo turno rilancia fortissimo le due inglesi, perché non a caso l'Arsenal ha vinto 5-0, il Manchester United ha vinto 4-0. Il Porto all'andata l'ha un po' messo in difficoltà l'Arsenal, e l'Arsenal è un peso non mosca, insomma, ma diciamo che è un peso medio che deve andare a giocare con quei pesi massimi. Quando arrivano i pesi massimi l'Arsenal fa fatica, soprattutto se troverà un'altra inglese che conosce bene. Infatti non a caso l'Arsenal in campionato è ancora perfettamente in corsa, ma gli scontri diretti li ha persi, insomma non li ha giocati con dei risultati positivi. Sicuramente il Manchester United è lì come ed è sempre stato. Trovo che ci sia stato in questi due giorni due o tre cose veramente fantastiche, perché il gol di Robben di Firenze credo che sia forse una delle migliori giocate. Il gol di Nasri, anche se è risultato acquisito, è stato ancora più bello, ma con un peso specifico inferiore. Quello che ho il sospetto che a volte giocatori delle squadre italiane non guardino troppe partite di calcio internazionale, perché credo che a parte uno che stesse guardando dall'altra parte, nessuno al Franchi poteva pensare che Robben facesse una cosa diversa. Cioè Robben è partito da quella posizione per andare a tirare, e certo, aveva 5 giocatori della Fiorentina accanto e nessuno è andato a contrasto per cercare di murarlo. Robben, quando è in quella posizione che ti punta, fa esattamente quello che faceva Rummenigge una volta, partendo dalla posizione opposta. Rummenigge da sinistra convergeva e caricava al destro, questo converge ovviamente dall'altra parte e carica il sinistro. Sì. Questo, poi bisogna sempre prenderli ancora. Bisogna sempre prenderli. Devo dire che Robben a volte Robben ciabatta anche, perché poi ci ha riprovato un paio di volte. Sì, vero. Ed è finita in Arno. Però quella palla lì l'ha messa come pochi mettono. Due domande. La prima arriva da un ascoltatore e dice: adesso cosa deve succedere perché l'Italia salvi il posto Champions rispetto alla Germania? No, il posto Champions l'anno prossimo è comunque salvo. Io credo che il Barcellona supererà lo Stoccarda, anche se ultimamente non sono in un periodo fecondo per quanto riguarda i pronostici, però insomma credo che il Barcellona farà fuori lo Stoccarda. Il coefficiente si gonfia maggiormente dalla Champions che all'Europa League, quindi direi che poi i destini del calcio italiano, bisogna sperare che una tedesca non vinca l'Europa League, ma di fatto i 4 posti sono salvi per la prossima edizione e bisogna vedere fra 2. Certo. Però io devo anche dire questo, dei coefficienti e tutto, sì, sono belle cose, sono cose che ci diciamo noi e sono cose che sono molto utili, perché comunque avere 4 squadre è meglio di 3, questo è banale. Però se noi facciamo dei conti e vediamo che insomma se non passasse l'Inter martedì prossimo, sarebbe il terzo anno consecutivo che l'Italia porta una squadra ai quarti, non possiamo lamentarci. Sì. Questo... Anche se onestamente la carta migliore l'Italia del calcio la deve ancora giocare, perché l'Inter è la squadra che è campione d'Italia negli ultimi anni ed è la squadra che è più attrezzata a livello europeo, quindi insomma, diciamo che il carico da 11 l'Italia ancora deve giocarsi. Qualche ascoltatore mi fa notare che indubbiamente per i milanisti aver visto andare fuori Kakà e oltretutto fischiato dal Bernabeu, sostituito nel finale e fischiato appunto al momento della sostituzione, è un modo per lenire, no? Da un punto di vista strettamente milanista. Però qualcun altro invece rileva, secondo me molto giustamente, che la vera soddisfa, come si dice dalle mie parti, la vera soddisfazione di ieri sera è quella del Lione, che prima gli ha picchiato Benzema prendendosi 50 milioni di euro e poi ieri sera li ha cacciati a casa a domicilio, insomma, effettivamente. Sì, perché quelli del Lione hanno anche, cioè voglio dire, il coltello insanguinato ce l'hanno in mano, mentre invece certo, il Milan non ha eliminato il Real Madrid. No, infatti è indiretto. L'ultima domanda è che squadra è il Fulham? Perché comunque è vero che la Europa League, stiamo parlando di una manifestazione di secondo piano rispetto alla Champions, su questo non c'è dubbio, però insomma questo, il fatto che la Juventus stasera giochi contro questa squadra di Hodgson non conosciutissima, perlomeno alle nostre latitudini, è un motivo di curiosità. Sì, a motivo di curiosità, Hodgson devo dire che in Inghilterra si è davvero riscattato, nel senso che lui ha preso in mano una squadra praticamente disperata 3 stagioni fa e che invece Hodgson contribuì a riuscire a salvare alla penultima giornata, o all'ultima giornata non ricordo, ma con un'impresa che poi gli valse il rinnovo del contratto. Il Fulham sta giocando un'eccellente stagione, soprattutto in casa, è una squadra che ottiene risultati migliori, è una squadra che concede abbastanza poco, una squadra che si appoggia molto anche sul lavoro di spinta sulle fasce, c'è Konchesky che sulla fascia sinistra butta in avanti una considerevole dose di palloni, credo che questa sera giocherà solo con Bobby Zamora punta centrale. Zamora è un bel giocatore, uno che va contrastato anche fisicamente perché è molto potente, molto bravo sia in acrobazia che di sponda. Penso anche che Hodgson venga per fare una partita non garibaldina e che quindi starà un po' ad aspettare, quindi cioè, si proporrà un cliché abbastanza normale con la Juventus più votata all'attacco e con il Fulham magari più attento a contenere, per provare a Craven Cottage invece dove il Fulham ottiene i risultati migliori a ribaltare quello che sarà il verdetto di questa sera. Grazie Fabio, ci risentiamo martedì. A voi, alla prossima. Chiudiamo il collegamento con Sky Sport 24. Non c'era tempo, insomma, ve lo dico io rapidamente, che ieri sera si è giocato un importante recupero di campionato francese. L'Auxerre ha vinto a Bordeaux, quindi il Bordeaux non ha sfruttato questo recupero e adesso rimane a pari punti in testa con il Montpellier, ma avendo l'Auxerre a un solo punto e il Lione a 2, il che significa che il campionato francese è apertissimo, esattamente come quello tedesco. Non che il nostro sia chiuso, perché poi nella seconda parte della trasmissione accenneremo anche a qualche guaio ambientale serio che ha l'Inter in questo momento, a parte il fatto che è appena uscita un'agenzia che Balotelli stamane ha accusato un infortunio al ginocchio per un trauma, cioè per un colpo subito in allenamento, e non parte per Catania, dove l'Inter giocherà domani sera. Giampaolo ha chiamato da Genova, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, complimenti. Volevo solo far notare una cosa. Io ieri dopo l'1-0 ho girato sul Real e ho notato quello che ha già detto Tavelli, questo Sissoko che è stato scartato per i denti, e giravo e vedevo Jankulowski da una parte e Sissoko dall'altra, e dicevo ma com'è possibile che adesso ovviamente Lione quest'anno se lo venderà probabilmente al doppio, al triplo di quello che poteva acquistarlo il Milan. Jankulowski ha dei denti buonissimi in compenso, no? Probabilmente questa è l'unica risposta possibile. Giampaolo, grazie. Roberto Ralodi scrive: mi potrebbe togliere una curiosità, perché i tifosi dello United ieri sera avevano sciarpe gialle e verdi? Le avevano già a Milano, sono i colori storici dello United di quando fu fondato, prima che diventasse appunto un'altra la sua divisa, e i tifosi li stanno sfoderando e inalberando in un certo senso contro l'attuale proprietà. Il significato simbolico è quello di tornare al Manchester antico e non più, avrà visto quanti striscioni ieri sera, amo lo United e odio Glazer, che è l'attuale proprietario americano che sta grosso modo portando in rovina da un punto di vista finanziario questo club. Non so se riusciamo rapidamente a sentire anche Matteo da Monza, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, una mia piccola considerazione, visto che Ferguson in ambedue le partite ha fatto marcare Ronaldinho e Pirlo ad uomo, non sarebbe stato il caso di marcare ad uomo l'unica loro punta che era Rooney, che ci ha rifilato 4 gol? Ascolto per radio, grazie e buongiorno. Bisogna prenderlo Rooney, bisogna essere capaci di marcare a uomo, noi non lo siamo più molto, non è vero poi che lo United abbia marcato a uomo. Ronaldinho ieri sera l'ha lasciato girare tranquillo, perché tanto non era questo grande problema. Ha stretto con Park dava la sua bella occhiata a Pirlo, questo è vero come riferimento, ma poi facendo tanto ma tanto di più. Park ieri sera, tolto Rooney che è fuori classifica, credo che Park e Neville proprio insieme anche a Fletcher, siano stati i migliori, beh, anche i due centrali, ma insomma loro tre, dato che Park e Neville, soprattutto per l'età, non godono della reputazione di altri, siano stati veramente due uomini chiave. Una parentesi di campionato: contro il Catania domani Balotelli non ci sarà, lo si legge sul sito dell'Inter. Nell'ultima parte della seduta c'è scritto: sotto gli occhi del presidente Moratti, stamane l'attaccante ha accusato una sofferenza per trauma diretto al ginocchio destro. Vuol dire che è un infortunio da trauma, per l'appunto, cioè da scontro stamane in allenamento. Certo, la cosa qualche dubbio lo autorizza, perché insomma vi ho dato conto ieri di quell'intervista di Mourinho in silenzio stampa, però ugualmente ha parlato con la Gazzetta dello Sport, ha spiegato che la febbre di Balotelli domenica era una bugia e quindi c'è qualche turbolenza ambientale non da poco in questo momento nell'Inter. Lo ricavo anche dal Corriere della Sera, da quello che scrive stamane Fabio Monti, che lo ripeto, da 10 anni è di gran lunga il più informato su tutto quanto avviene in casa Inter. Scrive per esempio: non è un bel momento per l'Inter, non lo è per la squadra che corre poco e gioca male, non lo è per la società. Ricostruisce l'intervista di ieri alla Gazzetta, e poi alla fine dice che la verità è che Balotelli comunque era stato male nella notte di sabato e per questo non era in condizioni di giocare. E poi conclude così: se anche un virus poi deve diventare l'occasione per prendersela con Balotelli, che ha anche un'infiammazione al ginocchio, e con chi non vive con il poster del tecnico sopra il letto, è un problema che dovrebbe riguardare la società. Quanto all'uso del termine bugia, perché questo ieri ha detto Mourinho a proposito della febbre di Balotelli, Mourinho, che conosce benissimo l'italiano, dovrebbe essere più cauto. Lo aveva già usato in modo improprio il 31 ottobre in merito a una notizia fatta filtrare dai vertici interisti e a lui sgradita. Ora la storia si ripete. Mentre a proposito di bugie ancora si cerca riscontro all'interessamento del Real per Mourinho del maggio 2009, quello che gli ha consentito di prolungare il contratto con adeguato ritocco economico. Pinocchi, si nasce o si diventa? Questo si domanda Fabio Monti. Lei ha criticato, mi scrive Stefania, Beckham per mesi e mesi, adesso dice che doveva giocare ieri sera, ma per piacere. Chi è da criticare è quello che da anni ha chiuso i rubinetti. Beh, lasciando stare questo, perché siamo anche in vigilia elettorale, Stefania, questo è un altro problema. Beckham, ho criticato Beckham, cioè non ho capito l'operazione Beckham in assoluto fin dallo scorso anno. E va bene, quest'anno la trovo del tutto e definitivamente incomprensibile, l'ingaggio di Beckham, il fatto che Beckham faccia oggi parte del Milan. Detto questo, visto che l'hanno preso e che ormai c'era, se c'è una partita a parer mio che deve giocare è quella di Old Trafford, che deve giocare al primo minuto, soprattutto quando per scelta o per necessità hai messo davanti due colpitori di testa. E l'ho già detto prima, cioè non vorrei poi ripetermi, hai messo due colpitori di testa e devi rifornirli di munizioni. Poi che Beckham non sia un giocatore più che può dare nulla di rilevante al Milan, beh, questo lo si era già visto l'altro anno e a maggior ragione lo si sta rivedendo quest'anno, solo che evidentemente è un errore reiterato, e reiterato in maniera grave, quello di quest'anno. Vincenzo in una mail si domanda, Vincenzo Cosi, anzi domanda, ma perché i geni di mercato, come li chiama lui, del Cavaliere, hanno ai saldi madrileni hanno preso Huntelaar e non Robben? Questa per esempio potrebbe essere una discreta domanda. Giorgio, chiamato dalla provincia di Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno Gigi, complimenti per la trasmissione. Mm-hmm. Io sono un tifoso milanista e la delusione di ieri sera non è tanto del risultato, secondo me, che comunque è pesante, ma l'atteggiamento della squadra. Il nostro mister per 2 settimane ha parlato tanto di atteggiamento, del fatto che dovevamo andare là a giocarcela, però dopo 5 minuti si è capito che il pallino ce l'aveva in mano il Manchester e noi non abbiamo visto un mezzo pallone che fosse uno. Giorgio, dopo 20 minuti, non 5, 20-25 e due pallini avuti, e come? Perché Huntelaar ha sbagliato un controllo facile in area avversaria e Ronaldinho... Su quella, la palla gli è stata deviata prima di testa da un avversario, lui ha avuto il riflesso ma non fino in fondo, ma se una di queste due palle entra, e poteva entrare, non c'era nulla da dire, è chiaro che la partita cambia anche psicologicamente. Sì Gigi, però l'atteggiamento era troppo timoroso, sin dall'inizio hanno sbagliato dei passaggi elementari, soprattutto a centrocampo. Non c'era... Ambrosini fuori giri, certo. E quando ha marcato, torniamo al problema che aveva anche Ancelotti, quando incontriamo delle squadre che bloccano il fulcro del nostro gioco, sinceramente non abbiamo alternative. C'è i poco. Nostri allenatori, sia Ancelotti che Leonardo, non riescono a trovarne valide. Per cui sì, anche... mi dispiace soprattutto l'atteggiamento, a parer mio. Anche perché gli altri corsi. Sì, sì, certo. Beh, insomma, è il finale soprattutto che ho trovato molto, molto inglorioso, insomma, per una squadra come il Milan. Francesco, Modena, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io volevo sapere, ma come si fa a giocare con tre attaccanti che dovrebbero fare la differenza, ma non fanno la differenza, e a crederci anche, cioè a pagarli profumatamente e avere un allenatore che poi crede anche in questo modulo di gioco che alla fine mette in difficoltà tutta la squadra. Quindi il problema qual è? Non pagarli allora? Secondo me sì. Il problema è non pagarli. Una bozza di soluzione l'abbiamo trovato, grazie. Dichiarazione di Beckham prima, trovo molto significativa. È stato bellissimo tornare a Old Trafford, ha detto Beckham, ma è stato un po' frustrante vivere una partita così partendo dalla panchina. Non posso dire cosa sarebbe cambiato se avessi giocato dal primo minuto, ma un po' frustrante lo è stato. Beh, insomma, credo che sia un rilievo, insomma, una notazione fatta in termini estremamente civili ed educati, ma quanto mai fondata. Molti ascoltatori scrivono, non so, Davide Cendron per congratularsi con i tifosi del Manchester per l'accoglienza riservata a Beckham, cosa giustissima. Io tornerei a fare un passetto indietro rispetto all'argomento di prima e sentirei come l'ha presa questa eliminazione del Real, come l'ha presa Jorge Valdano, cioè il consigliere del presidente, l'uomo che prima in campo da giocatore, poi da allenatore, poi da general manager, aveva creato un grande Real Madrid nel passato e adesso ho l'impressione che stia facendo un po' di fatica a ripetere i fasti di allora. Jorge Valdano. No, bueno, che è il momento della templanza. Un club come il Real Madrid non si può instabilizzare per questo è il momento della riflessione e della calma. Un club come il Real Madrid non può destabilizzarsi per una sconfitta, per quanto grave e per quanto triste che sia. Logicamente la situazione è di delusione, tristezza, frustrazione e qualsiasi parola per commentare è solo negativa. Di certo il club deve mantenere equilibrio in questo momento. Non credo forse sicurezza quella del presidente, quanto piuttosto ottimismo. Desiderava vincerla ed era convinto che la squadra potesse farcela. I giocatori, i tifosi, vista anche la vittoria in rimonta di domenica, erano fiduciosi. Nel primo tempo abbiamo mantenuto il possesso del gioco. Abbiamo fatto un gol, creato molte occasioni in più, ma non è stato abbastanza per andare negli spogliatoi con un vantaggio più cospicuo. Il Lione ha avuto il merito di continuare a giocare come se nulla fosse successo. Pellegrini ha un contratto con noi, intendiamo rispettarlo. Poi a fine stagione faremo un bilancio, perché non si possono fare questi ragionamenti dopo una sconfitta del genere. Non penso sia questo il momento per parlarne. No, può essere lo che penso io in questo momento. Beh, i giornali madrileni sono usciti, non dico listati a lutto, ma quasi dopo questa eliminazione, mentre invece è ovvio che di converso i giornali francesi hanno dato enorme rilievo a questa impresa, come è giusto che sia, perché quello che è accaduto ieri sera a Madrid è una delle tante lezioni, ripeto, che ogni tanto il calcio si ricorda di dare a chi crede che l'equazione più quattrini e quindi più giocatori equivalga poi a chissà quali trionfi. Alberto ha chiamato la Biella, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Biellese, milanista, molto triste. Sì. Senta, io vado un po' contro tendenza sull'analisi un po' degli altri ascoltatori, nel senso che bisogna anche pensare e ricordarci che all'ultimo momento ci sono state le defaillance di Antonini e Nesta. Se devo trovare qualcosa da dire, quindi la difesa titolare non c'era assolutamente. E questo forse ha innestato poi tutto il gioco del Milan, che poi si è riprodotto nella sconfitta sonante. Alberto, c'era la difesa ovviamente titolare. Il Milan non ha sostituti, se devo trovare un neo, e secondo il mio parere il problema è stato quello. Mm-hmm. Beh, però la difesa titolare c'era all'andata e ha preso tre perette in casa. Fatto, ricordiamocelo. Cioè, pur essendo passato in vantaggio. Sì, quello è anche vero. Volevo sapere se questo risultato, secondo lei, può incidere sul proseguo del campionato, visto che adesso è anche un po' in crisi l'Inter, e quindi... Ma io credo che il Milan debba intanto smaltire questo shock, perché perdere 4-0, andare fuori dalla Coppa Campioni in quella maniera non è mai una cosa che dici vabbè, adesso voltiamo pagina e adesso ci dedichiamo al campionato. Sì, certo che fai così, però poi bisogna vedere che cosa ti rimane dentro e quando riesci ad uscirne. La fortuna è che domenica c'è una partita non impossibile in casa contro il Chievo, e la fortuna è anche indubbiamente che l'Inter di questo periodo fa fatica oggettivamente, ed è anche attesa da due trasferte dure, perché Catania e Palermo di fila non sono certamente due trasferte agevoli, quindi sì, è chiaro che a gioco lungo avrà qualcosa in più da dare al campionato, però nella testa sa che ne avrebbe fatto volentieri a meno di dedicarsi solo al campionato, quindi non so fino a dove arrivino i benefici. Beh, non ci sono andati leggerissimi i giornali inglesi, come sempre d'altra parte in questi casi. Il Daily Telegraph scrive che gli inglesi si sono dimostrati troppo veloci, mobili e potenti per il Milan, giocatori ormai di una certa età che alla fine erano in totale balia come fossero manichini. Il Daily Mail scrive che la disfatta dell'Old Trafford è un momento di svolta nella storia milanista, che passano da dominatori dell'Europa a reparto geriatrico. Effettivamente è leggermente greve, come non è poi così campato in aria, ma insomma greve lo è indubbiamente. L'enorme differenza di preparazione atletica, scrive Gabriele dalla provincia di Ancona, tra le squadre inglesi e le nostre rappresenta l'aspetto più eloquente. Ma la differenza di preparazione atletica o la differenza di età? Mettiamoci anche questa. Ieri sera mi faceva notare, stamattina conversando e fissando prossimi appuntamenti per la trasmissione, il dottor Volpi, mi faceva notare che nei tre cambi di ieri sera del Manchester United sono entrati tre ragazzi, saranno entrati 65-70 anni di età complessivi, no? Di roba, se vogliamo metterla così. Nei tre cambi del Milan ne sono entrati 110, io credo, se non erano 110 erano 105. Credo che qualcosina voglia dire più della preparazione atletica. Alessandro ha chiamato da Roma, buongiorno. Buongiorno, volevo avvalorare la tesi. Io sono un tifoso della Roma, io sabato sono andato a vedere la partita e volevo avvalorare la tesi di un ascoltatore che ha detto circa l'utilizzo di Beckham. È chiaro, sabato sera quando è entrato lui ha messo due o tre cross molto pericolosi, per che poi magari uno l'ha sprecato proprio in maniera clamorosa, però è l'unico che sa crossare in quella squadra, e chiaramente se tu c'hai due torri poi devi anche avere qualcuno che è capace di crossarla la palla, perché altrimenti quei due poi coi piedi io ho visto che ci sanno fa molto poco, con la testa probabilmente magari un po' più pericolosi. Ci sanno fa molto poco di Huntelaar, in effetti ho visto quel controllo a seguire che poteva cambiare il segno della partita, non credo della qualificazione ma almeno della partita, in effetti la sensazione è stata quella. Il ripasso di storia consueto affidato come sempre a Nicola Filippone. Sembra ieri. 11 marzo 1934. La Lazio riesce a raddrizzare il derby pareggiando per 3-3 dopo essere stata sotto 3-0 in quella che è tuttora la rimonta più difficile nella storia della stracittadina capitolina. Protagonista dell'impresa è il brasiliano Alejandro De Maria, autore di tutte le reti biancocelesti. Quella di De Maria è la seconda tripletta nel derby romano. La prima era stata firmata all'andata dal giallorosso Ernesto Tomasi. Successivamente ci riuscirà il romanista Manfredini nel 60, mentre Vincenzo Montella nel 2002 andrà a segno 4 volte. Beh, bravo Nicola a tirare su un po' il morale ai laziali, no? con questo Marcord addirittura del 34. In questo momento può servire. Giuseppe, provincia di Salerno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Innanzitutto volevo farle i complimenti. Lei riempie la pausa pranzo in un modo eccezionale, devo dire, per quanto mi riguarda. Perché pranzate tardi al centro-sud. Questa pranziamo un po' più tardi, è bene. E forse sbagliando. Volevo porre un quesito che è poi anche una riflessione probabilmente. Galliani, ieri sera a precisa domanda di un giornalista ha dichiarato una cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso. Qual è la differenza tra Manchester e Milan stasera? Ha detto le assenze che abbiamo avuto in difesa, ma soprattutto ha detto in questo momento la differenza se perdiamo una squadra in Champions è il fatto che in Italia non abbiamo gli stadi. Mi sembra un po' riduttivo parlare di stadi in un contesto in cui la differenza tecnica e atletica tra le due squadre in campo è stata davvero abissale, almeno questa è la mia opinione. Sulla Fiorentina invece, facendo una riflessione generale della due giorni, credo che la Fiorentina, al di là di Gilardino campione del mondo, non avesse poi tantissima qualità rispetto al Bayern, che pur se inferiore nelle due partite ha mostrato, credo, con Robben e Ribéry una qualità che la Fiorentina non ha. Grazie, l'ascolto in radio. Grazie a lei Giuseppe. No, io continuo a ritenere abbastanza ingiusto il verdetto complessivo di Fiorentina-Bayern, al di là poi delle individualità, insomma, anche nel Bayern indubbiamente, per carità Robben, per carità anche Ribéry senza esagerare, altri buoni giocatori d'esperienza, ma insomma anche la Fiorentina di qualità, certo ne ha meno in questo momento, ma anche fuori gente come Mutu, che di qualità invece ne avrebbe tanta se la capoccia magari fosse un tantinello diversa. Sul resto sì, è chiaro che le spiegazioni poi sono sempre a qualcosa bisogna pure aggrapparsi, no? Ieri sera c'erano le assenze del Milan ed è chiaro che Galliani ha sottolineato quelle. Quando due anni fa il Manchester United andò fuori dal Milan perché ha giocato senza difesa titolare, ma tutta la difesa però a San Siro, ovviamente il Milan di quello non si è ricordato e non l'ha sottolineato, ma questa è la normale dialettica di queste partite ed è normale che ogni tanto poi si cerchi, no? Si provi, si senta stridor di unghie sui vetri, insomma, fa parte della prassi in questi casi. Alessandro Firenze, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. Mi collego a quello che ha detto proprio un ascoltatore da Roma poco fa, no? Sulla dichiarazione di Galliani nel dopo partita, che ha insistito moltissimo sul punto degli stadi, no? Galliani, che in Italia non ci sono stati adeguati, mentre all'estero per tempo hanno pianificato, si sono organizzati, noi abbiamo ancora stadi del dopoguerra. È vero, però non è un problema, no? Che è uscito fuori negli ultimi mesi, mi pare, se ne parla da quando ero bambino, insomma, di questo problema degli stadi, non so se lei è d'accordo. E in tutti questi ultimi anni, Galliani non è che ha ricoperto ruoli di secondo piano, no? E nemmeno il suo presidente, mi pare, insomma. No, forse no. Forse no, Alessandro. A parte il fatto che ogni volta che sento parlare di stadi, certo, se parliamo strettamente di calcio, il discorso di Galliani, al di là che lei lo definisce peloso, no? No, prova a tradurre, prova a dargli un'etichetta, certo di interpretare il suo pensiero, però è tutt'altro che privo di fondamento. Quando però parliamo di stadi e della nostra arretratezza rispetto al resto dell'Europa civile, beh, sinceramente a me vengono in mente altre cose, prima degli stadi, no? Mi vengono in mente i paesi che cadono, mi vengono in mente le colline che franano, mi vengono in mente le infrastrutture disastrose, mi viene in mente che stiamo scoprendo in questi mesi l'alta velocità. Mi vengono in mente tante di quelle robe che sinceramente gli stadi possiamo anche lasciarli perdere e pensare a qualcosina di più serio, eh? Francesco, provincia di Cuneo, buongiorno. Sì, buongiorno signor Galanzini. Il mio intervento era più che altro magari una riflessione sul fatto che se la squadra che è seconda in classifica becca 4 gol in Inghilterra, cioè voglio dire, secondo me il livello del nostro campionato non è poi così alto come vogliono farci credere. In più a questo punto credo che l'Inter potrebbe anche avere 15-16 punti di vantaggio invece ha i punti che ha. Comunque niente, era solo una mia riflessione. Buongiorno. Buongiorno a lei, ma una riflessione più che fondata, neanche inedita, Francesco, perché ormai sappiamo da un pochino che il livello è questo. Se negli ultimi due anni consecutivi l'Italia, il calcio italiano non ha piazzato una squadra tra le prime otto, con una ragione ci sarà. Adesso quest'anno al massimo ne piazza una, ben che vada martedì prossimo. Allora, grazie a tutti gli intervenuti, mi pare sì, il tempo è scaduto giusto ora. Grazie dunque a Pietro Lacorte in regia, Flavio Suardi e Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio.